In realtà, non, come dice il sottotitolo, forse più che il titolo, non era assolutamente mia intenzione fare un libro, non pensavo mai che sarebbe uscito fuori un libro da un lutto. Quello che ho fatto è stato cominciare a raccogliere appunti. La cosa particolare è che, essendo io un disegnatore, li raccoglievo disegnando, sono sostanzialmente delle tavole che io ho cominciato a pubblicare subito dopo la morte di mia madre, nel marzo del 23. Queste tavole, dopo mesi, erano diventate l'ossatura di quello che poi è stato un libro in carne, anzi no, in carta e copertina. E che certamente è stato anche un importante percorso anche per te, per ritrovare determinati aspetti, determinate sensazioni. Sì, come... devo dire, è incredibile da questo punto di vista, quando a volte dicono sai il potere taumaturgico della scrittura o del raccontare. Per me è stato importante in una prima fase perché ho semplicemente sfogato, ho buttato su pagina. Nella seconda fase, quella in cui ho lavorato al libro, ho rimesso mano a delle cose scritte nell'immediatezza del lutto e le ho rielaborate, e adesso che dalla pubblicazione del libro sono passati diversi mesi, se mi capita di rileggerlo, è una cosa che veramente con difficoltà faccio, continuo a rielaborare qualcosa, continuo a scoprire un pezzo di racconto, e mi sento lettore di questo libro, non autore. Quando molte persone mi scrivono e mi dicono sai grazie perché sei riuscito a raccontare una cosa, io li capisco, perché io sto leggendo e dico oh, ma sai che in effetti ho capito una cosa grazie a questo libro, meno male che qualcuno l'ha scritto, poi è capitato che quello sia io. E per quanto riguarda la struttura, l'hai suddiviso in che modo? Senti, essendo degli appunti, ho trovato, e degli appunti intendo delle brevi notazioni, sono brevi episodi che raccontano dei momenti che accadono o successivamente alla morte o precedentemente, quindi ci sono i momenti del lutto e quelli del ricordo, e ho trovato utile una sorta di datazione, cioè segnare con il più gli eventi che sono successi dopo la morte e con il meno quelli accaduti prima, quindi il libro si sposta continuamente avanti e indietro nel tempo per raccontare sostanzialmente stati d'animo. Magari le cose più dolci alle volte sono quelle successe prima perché c'è un ricordo piacevole, alle volte sono quelle successe dopo perché c'è una ricostruzione. E certamente, oltre che un motivo di comunicazione con un pubblico molto sensibile, anche qualcosa che può essere condiviso, perché va da sé, purtroppo il tema ci rende ancora uniti, se vogliamo, e questo porta, secondo te, il lettore a trovare una condivisione ulteriore nel riconoscersi? Chiaramente ognuno a modo suo, ci mancherebbe. Sai, io sono abituato per lavoro, io sono un vignettista satirico, disegno di satira politica ogni giorno, quindi sono abituato a fare un lavoro estremamente divisivo in un contesto polarizzato come quello in cui ci muoviamo adesso. Basta passare in giro sui social, vedi che è un continuo dividersi e scannarsi fra due squadre, e il mio è un lavoro che quindi in genere spacca dorato, spacca l'opinione. Invece nel caso di Cenere io ho provato una sensazione incredibile, cioè è stato un enorme abbraccio, si è riunita attorno a questo libro una comunità che io non conoscevo e che mi ha dato tanto da questo punto di vista, mi ha fatto sentire, come dicevi tu all'inizio della tua domanda, che capita a tutti e siamo tutti uniti da questa cosa, e è stato come accendere un fuoco, cominciare a raccontare una storia, a cominciare a fermarsi sempre più gente ad ascoltare e a raccontare a sua volta. Io ricevo ancora tantissimi messaggi di persone che vogliono condividere perché io ho condiviso, e quindi quest'unione che mi ha regalato Cenere è una cosa che non pensavo possibile, probabilmente non troverò mai più nel mio lavoro. E condividerlo venerdì 6 dicembre alle 18:30 al Fluo Art in via Montegrappa 7/B a Bologna, l'incontro con l'autore Mario Natangelo, presentazione del suo libro Cenere, appunti da un lutto. A moderare sarà Alfredo Pasquali di Radio Città Fujiko. Io ti ringrazio tantissimo Mario per questa anticipazione, appuntamento quindi a Bologna. Grazie. Grazie mille, ciao.